24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Notti tragiche ci hanno fatto un gol sotto il cielo di un'estate brasiliana. Anche l'arbitro ci ha messo nei guai. Finale! E dopo il corso ci ha Vabbè, questo è Fiorello la vede così l'eliminazione dell'Italia. Mamma mia, che tragedia. Anche con tutti quelli che adesso inizieranno a dirci basta parlare di calcio, basta, ma ne parliamo ogni 4 anni per 2 giorni. Smettetela anche voi. E insomma, ci sono, non fate i radical chic, che non è più cosa. Vogliamo parlare di basket? Parliamo di basket. Ieri l'Olimpia Milano ha stravinto all'ultimo secondo a Siena. Certo, ovviamente ci sarà poi l'ultima partita, decisiva. Questa sarà decisiva per l'assegnazione dello scudetto. E va bene, cari italiani, sono le 6:33 minuti, abbiamo iniziato con Fiorello, un po' di allegria per capire, allegria, cantava e decantava l'eliminazione dell'Italia. Oh, ma li avete visti tutti i fotomontaggi? Balotelli, ce n'è uno col tutù addirittura. Oppure Suarez, ce n'è una di Suarez col collare, quello che si mette ai cani dopo le operazioni per evitare che... No. Vabbè, non male, ci si sbizzarrisce anche così. Quando sono le 6:34 minuti, intanto voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, voglio salutare anche l'alpino Peter Bescapè in regia. E che dire, oggi c'è un Barlavento al momento vuoto, stiamo cercando Albertone Forchielli. Dove sei? Alberto Forchielli, sei l'unico ospite, devi rispondere, se no mi ritrovo mezz'ora qui senza di te. Ma non lo so, è scomparso, ci siamo sentiti anche ieri, ha detto sì, va bene, ti aspetto, eccomi qua, telefonami, sono a Hong Kong. Lo chiamiamo, non risponde, non lo so, le linee telefoniche. Comunque alle 6:35 minuti, tutto tranquillo. Vogliamo aprire il Parlamento? A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento, forza. Eccola qui, Nicole Minetti che offre il caffè come sempre. Allora... No, ditemi che è intervenuto anche Gianfranco Fini sulla nazionale di calcio, addirittura Gianfranco Fini. Ma dove è finito Gianfranco Fini? Beh, adesso riparte forse con un nuovo partito. Comunque, insomma, sentite Gianfranco Fini che parla della nazionale di calcio. Siamo un popolo di commissari tecnici, per cui è diventato un caso nazionale. Un'Italia mediocre che è stata mandata a casa. Ma è lo specchio complessivo di questo paese, come dicono alcuni, o c'entra solo il calcio e dobbiamo limitarci a quello? Mi sembra che la nazionale sia peggio del paese in questa fase. peggio del paese, così ha detto Gianfranco Fini a parlare, insomma, della nazionale di calcio. E che dobbiamo dire, cari italiani, ma soprattutto che ne pensate di quello che ha detto Mario Balotelli? Ne parleremo ovviamente alle 8:15. Il titolo del giornale è questo: italiani meglio i negri. Vabbè, il titolo del giornale insomma prende la frase di Balotelli, nella quale dice: in questo noi negri, come ci chiamate voi, siamo anni luce da avanti, non avrebbero gli africani, non scaricherebbero mai un loro fratello come avete fatto voi italiani. E questo è quello che ha detto Super Mario Balotelli. Ovviamente io avrei voluto avere l'audio, ma sapete, lui si affida ai social network e dunque nulla. E, allora, di questo parleremo alle 8:15, parleremo anche di altri temi, ovviamente, mentre intanto il nostro Alberto Forchielli che fa? Si è addormentato, boh, è un Kong, non lo so, chiamatemi qualcuno, facciamo qualcosa. Niente, non c'è nessuna risposta, il nostro Albertone Forchielli chissà dov'è, in qualche riunione importante economica, intanto che dire. Allora iniziamo da che cosa? A sentire qualcosa, l'audio della politica. La politica ieri ha vissuto questo momento in cui Renzi e il Movimento 5 Stelle si sono messi faccia a faccia. Renzi aveva detto non vado a questo incontro, in realtà poi si è seduto davanti ai responsabili del Movimento 5 Stelle per parlare di legge elettorale. Ci sono stati anche degli scambi molto simpatici. Sentiamo Renzi, che a un certo punto di legge elettorale ha parlato addirittura di grande fratello, no? Di grande fratello, il grande fratellum, questa è la legge elettorale che volete voi. Abbiamo dei dubbi. Il tema del voto della preferenza negativa con cancellazione esiste in Svizzera. È un po' un meccanismo che ricorda più la nomination del grande fratello che non l'elezione con preferenza, no? Cioè io indico uno che deve uscire non dalla casa ma dalla lista. Ha quel significato che Toninelli cercava di illustrare anche in modo molto puntuale, e lo ringrazio per la chiarezza. A nostro giudizio pone dei problemi in più. Pone dei problemi in più. Ho capito, ma questa cosa del grande fratello non l'ha detta in questo file. Vabbè, sentiamo ancora Renzi contro il Movimento 5 Stelle. Il punto della Toninelli bis è secondo noi molto interessante per tanti aspetti, ma è gravemente deficitario sotto il profilo della governabilità. La governabilità, così Matteo Renzi. Vabbè, insomma, è stata una roba, parliamoci chiaro, un incontro inutile, un incontro noioso. Oggi ci sono ancora pagine e paginate di parlare della legge elettorale sui giornali. La legge elettorale, una cosa che sono sicuro che animerà le vostre colazioni, che animerà i crocicchi delle strade dove tutti si incontreranno e parleranno dell'Italicum, parleranno del Democratellum, parleranno del Consultellum, parleranno del Grande Fratellum, così Matteo Renzi a un certo punto a quelli del Movimento 5 Stelle. E vabbè, sentiamolo qui, il Complicatellum e il Grande Fratellum. Per noi prioritaria è la governabilità, il tema delle preferenze viene dopo. Quindi possiamo discutere delle preferenze. Noi stiamo discutendo delle preferenze, della governabilità, delle cose. Dopodiché pensiamo che il sistema Toninelli, che io definisco scherzando il complicatellum, detto anche grande fratellum, dà l'escluso della aspetti casa. Aspetti di vedere i risultati delle simulazioni dell'Italicum per capire quanto è complicato. Di Maio. Eleggiamo gente a Canicattì e non Di Maio. Votata in Basilicata. Vabbè, Di Maio, questo è stato l'unico momento un po' che ha ravvivato questo incontro. Il dibattito sulla legge elettorale, un qualcosa che davvero, ripeto, appassiona solo i giornali, i politici che se ne occupano e basta. E ogni tanto anch'io me ne devo occupare, perché insomma il mio lavoro prevede anche questo, e quindi devo farlo. Ma c'è, come sapete, uno come... Chi è venuto in soccorso? Pronto? Chi è che è venuta in soccorso? Alino! La riconosco questa voce. Alino, Milan, è Paola Milan. Saluzzi, è venuta in soccorso. Scusate, ma abbiate pazienza, ma parliamo con tutti gli ascoltatori di 24 mattino. Ma che cosa si è ascoltatori a fare se non si ha questa formidabile chance di entrare e di dire, sai che ti dico, ma basta con questi con la puzza sotto al naso per i mondiali, ma viviamo di mondiali, ma parliamo di calcio. Guarda, adesso parlo di calcio tutti i giorni, da qui ma fino via, no. Che roba, già con Meazza devo dire che insomma il duo parte sempre parlando di calcio, ma insomma ma questo Forchielli, parliamo anche di ma questo Forchielli, ma dove è finito il mistero sarà? Forchielli, magari è lì disperato che mi sta scrivendo su Twitter. Forchielli, se mi stai scrivendo su Twitter, non vedo Twitter in questo momento, non ho il telefonino sotto mano, ho già le mie preoccupazioni. Allora, cara Paola Saluzzi, come stai? Vogliamo parlare di Balotelli. Questa l'ha detta grossa, Perché, allora, al di là di tutto, io vorrei conoscere sto tifoso che gli ha detto, hai giocato così forse perché non sei italiano. Cioè, ma come adesso lui reagisce? Per carità, lungi dal fare le mamme di Balotelli, già una straordinaria, anzi ne ha due, ha una mamma che gli ha dato la vita e una mamma straordinaria che l'ha fatto diventare anche Balotelli. Ma adesso anche questo ballotellismo, no, tuteliamolo, ma che te tuteliamolo? Cioè, il ragazzo deve un po', come dire, tornare coi piedi per terra. Però quel tifoso che gli ha scritto, forse già è stato così perché non sei italiano, ammazza che imbecille, detto tra noi. Cioè... No, abbastanza. Ha stuzzicato una situazione che non avrebbe dovuto fare. Tutto qua. Comunque, la sua reazione? È una balotellata, diciamolo così. Ce lo dobbiamo tenere così, non è che insomma, un po' testa calda e va bene. Un po' così. Comunque, tant'è. Ma secondo te chi va? Cioè, adesso rilancio ai nostri amici che ci seguono su Twitter. Chi va a CT della nazionale adesso? Guarda, mi lanciano, ci sono molti che mi lanciano questa idea dello schema Allegri che sta per partire. Sai com'è lo schema Allegri? Dai! Quando al settantesimo circa le partite volgevano sempre verso una sconfitta, ultimamente verso un pareggio, lo schema Allegri era dai, forza, dai! Peggio di me, ottimista fino alla fine. Sì, ho capito, però questo era lo schema provato tutta la settimana in allenamento. Dai! Va bene. Ho capito. Allora, l'esperto Alino Milan, chi dice? No, ma io credo Allegri, no, non lo so, Spalletti, non lo so, si vocifera. Non sono esperto, non so. Si vociferano questi, Spalletti, Mancini, Allegri. Ecco, questi sono i nomi che... A te chi piace? Grande ammirazione per Mancini, sì. Diventato molto British, ma è tanto bravo Spalletti. È tanto bravo, detto così, è una brava persona. È tanto bravo Spalletti. Vabbè, a Paola Saluzzi ci piace Spalletti. Perché era l'allenatore della Roma? Per quello? Ma perché è un in gamba. No, non sono così esperta, purtroppo. Io sono una tottiana. Io più che romanista sono romanista, ma sono tottiana, quindi non ci capisco niente. La verità è questa, Lino, diciamola tutta. Però totti. Va bene, voglio interpretare con questo SMS il pensiero mio e dell'Italia intera. Sergio da Lecce ci scrive: tutti vorrebbero essere soccorsi dalla Croce Rossina Saluzzi. Mi sento male, scrive anche Sergio da Lecce. Intanto, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo con Paola Saluzzi. 24 mattino. La IUC non è un'imposta comunale unica, sono invece ben tre tributi zozzi vari, lì murtacci loro, la TASI e la TARI. Cioè se strozzino lo Stato e i comuni che mo stanno a diventare davvero importuni. Osarmo si tuoion, non fate i coglion e non datevi un sordon. Caro Milan, mi dispiace che l'Italia venga a casa, mi dispiace per quei ragazzi milionari che vengono a casa, ma da domani gli italiani guarderanno alle loro tasche, alle nuove tasse, alle immunità. Non è poco, secondo me gli italiani da domani avranno altre cose a cui pensare. Io sono un tifoso a viola e lo posso anche dire. Prandelli è un buon rappresentante di vini, di liquori, che un giorno ha pensato che poteva anche essere un allenatore, ma niente di più. Ritorni a fare il rappresentante di vini. E quanta gente adesso chiamerà il suo cane Suarez? Sono esponente di un gruppo enorme di persone. Mancini, allenatore della nazionale. E mentre Renzi si fa un mazzo così, noi tutti davanti alla televisione con la trombetta. È la quarta settimana del mese, non c'avete soldi, anche per mangiare le patate. Viva l'Italia, viva Ballottelli, viva Buffon! Vedi, cara Paola, che di riffa o per criticare o per elogiare, tutti parlano di calcio, questa però, è la verità. Però io aprirei adesso proprio una pagina con tutti i nostri ascoltatori, sì. Su Suarez. Oh, tu lo chiameresti il cane Suarez? Guarda, che noi avremo anche la mordacchia. La mordacchia. Io avrò ospite alle 8:15 Giuliano Ferrara, che ieri ha scritto un elogio di Suarez, del figlio di puttanismo di Suarez, quello che manca a noi, ha scritto Giuliano Ferrara. Non no, so. L'ho letto ed è stata una grande pagina, devo dire, e mi sono molto molto molto divertita pensando oltretutto a quest'uomo che va in giro e morde. E morde. E non solo, e ieri ha detto, ma insomma, ma sì, ma la FIFA mica si può occupare di queste cose, ma basta, sì, tiriamo dritto, tiriamo in alto. Sì. Ma come tiriamo in alto? Ma che è la federazione? C'ha 32 elementi in bocca, oltre alle due gambe, è troppo. Ma è ho troppo. Capito, oggi ci sono delle foto sui giornali che già in un'Italia-Uruguay di un paio di anni fa aveva provato a mordere sempre Chiellini. C'è una foto in cui si vede lì che sta per morderlo, però non ce l'ha fatta. Sono inizi di cannibalismo, ma adesso la vera cosa è, per chi tifiamo adesso? Io spero nell'Argentina, perché così mi piacerebbe vedere questo dramma, ma non che sono cattivo verso i brasiliani, però capisci il dramma se l'Argentina vincesse in Brasile? Cioè. Vic Dramone, e poi vedi come sei... Tu sei subito calcistico, invece penso all'Argentina per Papa Francesco. Mamma mia, ragazzi, Papa, me lo vedo l'Angelus di cosa dirà, campioni del mondo, campioni del mondo. Già San Lorenzo sta lì, ma lui tifa parecchio. Tu invece vedi, tecnicamente parlando, dici tifare Argentina, sì, perché in effetti sarebbe uno scontro con la... certo. Secondo me in Brasile si suicidano, no? Sì, diciamo sì, queste cose pesanti, purtroppo il timore è quello. Allora, vediamo un po', ti devo far sentire due persone che ti faranno sicuramente rallegrare la giornata. Uno è il leghista Buonanno, eh? Oh, evviva! No, mamma mia, ti sei intesita subito. No. Ti sei intesita così. Subito. Allora, il leghista Buonanno lascia la Camera perché è stato eletto a Strasburgo all'Europarlamento e allora andrà lì a fare alcune dei suoi danni che fa anche alla Camera, nel senso le sue scenette. Sapete che una volta ha mostrato anche una spigola. Sentite come si presenterà a Strasburgo. Siccome io non voglio diventare islamico, le preannuncio che il 1 luglio, quando diventerò ufficialmente deputato europeo, mi presenterò a Strasburgo con il burka, perché voglio vedere se a Strasburgo mi fanno entrare con il burka, visto che in Italia si può fare con il burka. Però la cosa sui risultati positivi. Cioè, non lo vede nessuno. Non lo vedono in faccia. No, il nostro Buonanno, ma dai con il burka. Ma non con iniziamo subito così a farci vedere con il burka. Così sono pensieri, sono bizzarrie. Sarà come dire compagno di banco di Borghezio. Ah no, Borghezio non c'è più. No, Borghezio c'è. È stato eletto a Roma, nella tua Roma, perché è stato era arrivato secondo. Salvini ha rinunciato a un collegio da una parte dove è stato eletto. Certo. E Borghezio è stato eletto nel collegio centrale e a Roma ha preso i voti, nella tua Roma. No, io so che ha preso anche un fracco di botte delle mamme, sì, che stanno mi ha dato fuori da una scuola, basta. Ma lui è così. Combatte così. Eravamo in tre, eravamo in tre, diceva Alberto Sordi, ma va bene. E quindi si presenterà col burca. E tra l'altro sai che lui ha avuto dei rapporti molto molto tesi con la presidente della Camera Boldrini, che ha salutato così, sempre buon anno. Vi ringrazio ancora tutti, ringrazio la presidenza, mi dispiace che non ci sia la presidente Boldrini perché l'avrei voluta ringraziare in maniera sincera, perché se io oggi sono eurodeputato lo devo anche a lei per come mi ha trattato. Ancora a tutti, arrivederci. Arrivederci, buon anno. Ma magari lui salirà adesso a Bruxelles e a Strasburgo, sì, e troverà la sua strada. E quindi forse resterà lì. Vabbè, è troppo cattiva questa, dai. No, però andrà col burka, vabbè, il primo luglio, segnatevi là, io me lo voglio vedere la scena se arriva col burka, perdere. Perché lui è uno che lo fa, poi si prende il burka e lo... Mamma mia, vabbè, ci facciamo riconoscere, come dire, subito. Se per questo quando azzeccarlo a Giulio Ciampi, tutti in piedi, andò al Parlamento Europeo, ci fu anche la fronda leghista che fischiò, che non mi ricordo che cosa fece, insomma, ci furono situazioni imbarazzanti, però per fortuna ci sono anche rappresentanti della Lega molto intelligenti e quindi tu tiri la media e la media così ti fa dire va bene, d'accordo, il burka certo, ribadisco, ha un valore. Non lo vediamo. Buon anno ovviamente. Ti faccio sentire un'altra persona che ho visto tuo ospite, spesso anche il nostro ospite, l'onorevole Bianconi, uno che regala sempre qualche perla con i suoi stringati editoriali. Senti per esempio cosa pensa del patto del Nazareno, quello tra PD e Forza Italia, Ho detto che il patto del Nazareno è, virgolette, una puttanata, chiuse virgolette, ce l'hanno tutti con me, dopo sacco che è, virgolette, una puttanata. Ecco. È lo stesso problema che c'è anche con me. Cioè, Bianconi ha un modo molto franco e molto diretto. Cioè, toscano. Bisogna risparmiare parole, insomma, perché le parole esistono, ma non bisogna spenderle troppo. E esatto. Il dono della sintesi. Va bene. E allora, per concludere, ti voglio far sentire anche un altro che ti rallegrerà la giornata. Ma è da mani sul volante? Abbastanza. Antonio Razzi. Senti qui Antonio Razzi. Si vede che lo vogliono quelli che gli fanno bisogno, a me non mi fa bisogno. Quindi? Io non ho nessun problema. Per me se non c'è, non c'è problema. Se c'è, meglio. No, vabbè, intanto a me non mi serve. Io non ho fatto e non farò niente di male a nessuno, perciò a me non mi serve. Parlava dell'immunità, com'è che ha detto? Serve a chi ce n'è bisogno. Però Razzi mi ricorda un formidabile attore, perso ormai nella notte dei tempi, anzi era quello che si definiva illo tempore un caratterista, che si chiamava Virgilio Riento, sì. e che lavorava con Anna Magnani, non azzeccava una di parole in italiano, ma apposta ovviamente, e lui è formidabile, oggi non c'è il nostro Luca Dini, ma su Vanity Fair hanno fatto un pezzo su Razzi settimane fa che era da staccare e conservare. Antonio Razzi è un pezzo di Parlamento. Senti Paola Saluzzi, oggi alle 15 come sempre sei in onda, come faccio io per ringraziarti? Cosa devo fare? Adesso, ascoltatori di Radio 24. Sì. Alino Milan vuole ringraziare me. Ma chi è così buono da darmi mezz'ora di prima mattina per farmi parlare e farmi dire tutte le scempiaggini che dico? Quindi sono io che devo mandare ad Alino Milan, a Miriam Lucchetti, a Peter Bescapè e anche a Forchielli l'avevo chiuso in questa stanzetta, l'ho fatto apposta per riuscire a parlare mezz'ora con voi, tutto qui. Esatto, l'hai fatto apposta, vabbè, alle 15 in onda, mi raccomando, alle 15, ieri politica. Certo, ieri avevo visto un Gennaro migliore a parlare del dramma di Sel, il dramma di Sel. E vabbè, dai, attenzione, mi arriva un messaggio di Forchielli.

l'Italia dei valori, Fergi, ma dai su, ma andate con i vostri cani, amici cani, dove volete, ma chi se ne frega di parlarne per una pagina sul Libero. La carta costa, è arrivata la coppa e settimana prossima la consegneremo al vincitore. Scoprirete tutto. 24 mattino. Alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, di fronte alla sconfitta, la disfatta, l'umiliazione sportiva e non, scatta il solito riflesso ancestrale, la ricerca del colpevole, del capro espiatorio, dell'agnello sacrificale. Allora, gli italiani, almeno molti italiani, l'hanno trovato, questo signor Malossen del calcio. È un ragazzo che qualunque cosa faccia divide. Mario Balotelli, idolo, uomo geniale, estroso, condottiero quando segna e quando fa sognare, e poi viziato, insopportabile, sopravvalutato, sbruffone quando perde, quando si perde e si fallisce. Certo, Balotelli poi non fa nulla per non passare inosservato. Ieri, rispondendo a un tifoso che lo accusava di non essersi impegnato, ha risposto: "Io mi sento italiano. O forse, come dite voi, non sono italiano. Gli africani non scaricherebbero mai un loro fratello. In questo noi negri, come ci chiamate voi, siamo anni luce avanti. Vergogna." Apriti cielo, Giuliano Ferrara, buongiorno, direttore del Foglio. Buongiorno. Apriti buongiorno. Cielo, lei ieri ha scritto che non sopporta i processi postumi. È un processo postumo quello che stiamo facendo in questi giorni in Italia? Ma non lo so, Balotelli lo capisco perché è amareggiato, insomma, chi ha perso l'ha rispettato, quindi non voglio accanirmi. Certo, insomma, è un modo un po' elementare di ragionare, un po' emozionale. Bisognerebbe che ci pensassero tutti un pochino. Sarebbe meglio pensare quando si gioca a calcio, ma insomma, essendosi rivelata questa una cosa un po' difficile da fare per loro, vabbè, ci pensino dopo. Ci pensino dopo. Ma questa cosa del tirare in ballo, no? Si è tanto parlato dell'italiano di nuova generazione, dell'italiano, tirare in ballo questa storia di non ci avrebbero scaricato in Africa, come la vede? Una giustificazione? Ma, insomma, essere bresciano con la pelle nera è comunque un... Non dico un problema, ma un mezzo problema sicuramente sì. Voglio dire, siamo in un paese civile, non è vero che siamo razzisti, il razzismo biologico in Italia non è mai esistito. Esiste una forma di, come si può dire, insomma, di c'è il sarcasmo, c'è il senso dell'estraneità, c'è quello spirito ridanciano, un po' stronzo, diciamo, degli italiani, ma non c'è un vero razzismo biologico, nessuno si sente superiore a Balotelli, vorrei anche vedere quel cristone di Manca Antonio lì, insomma, guadagna un sacco di soldi, fai giocatore, non è quello il punto è che, vabbè, insomma, in un momento così tragico uno dice: "Ah, perché non sono io con i miei pastori?" diceva il poeta D'Annunzio, e lui dice: "Perché non sono io con i miei africani?" Ecco, è una forma di nostalgia canaglia per una situazione che ti sta sfuggendo di mano. Questo sì. Però ieri perché lei sul Foglio ha scritto un elogio del figlio di puttanesimo, come lo possiamo chiamare, di Suarez, colui che ha morso Chiellini, ed è ciò che manca agli italiani, ciò, quella cattiveria, no, canaglia. Io ho cercato di essere un pochino più sofisticato e complicato, sì. Io ho detto che mi piacciono le geometrie anche da fermo di Pirlo, l'Accademia degli Eleganti, cioè la mia famiglia nazionale, anche calcistica, è un'altra, per me quello lì è un animale, però è un animale un po' sacrale, perché fare in campo, commettere in campo un gesto così profondamente antisportivo, che nega l'essenza stessa del calcio, il fair play, o quello che si attribuisce al calcio ideologicamente essere la sua essenza, il fair play, e farlo in quel modo di nascosto, poi lamentandosi perché ti fanno male i denti, sì, o se l'altro ti è stato una botta alla bocca, è una cosa che non può, che non deve sollevare il moralismo a cattone, quella cosa di dire: "Oh, non si fa, signora maestra." Sì, vabbè, lo puoi fare in campo. Il bravo Chiellini, incolpevole, l'ha fatto perché sperava che lo espellessero, però insomma la reazione deve essere una reazione un po' forte, un po' all'altezza del caso, ecco. Se c'è un cannibale in campo, beh, tutti si devono voltare, guardarlo e capire come l'ha messa, da che deriva, come rispondere, ecco. Magari se Chiellini gli avesse dato uno sganassone, non so, forse la cosa si riequilibrava un po' e si ridimensionava Suarez, ma così certo. Suarez è un eroe assoluto. È cannibale recidivo, peraltro. Però, perché, sì. Però lei scrive che quel talento lì, quella sfacciataggine ci manca e un po' le spiace, ecco. Ma io dico che noi, insomma, è il quid che ci manca per fortuna, ma anche per disgrazia. Insomma, cerco di far vedere che, certo, non si può far finta di essere così degli avanzi di galera uruguaggi, per dirla tra virgolette, come una definizione spregiosa verso questa loro tracotanza, questa sì. loro voglia di vincere col fuoco nella pancia, eccetera. Noi siamo fatti in un altro modo, non c'è niente da fare, basta, ma poi si è visto anche come è andata con l'Inghilterra, insomma, e con l'Uruguay, loro sono così, non c'è niente da fare, ti inchiodano a te stesso e ti impediscono di giocare e determinano le condizioni della partita sulla base di un metodo balordo ma molto forte. Noi non siamo così, quindi quel qui lì ci manca. Certo, una punta in più, quando siamo andati sotto di un gol, avete visto nell'ultimo quarto d'ora, poi dopo i nostri stavano sempre sotto la porta degli uruguaiani. Infatti, insomma, invece si poteva giocare non per pareggiare, ma per pareggiare 1-1. È un po' un processo postumo, però, Ferrara, questo. Sì, no, ma io lo dico con il sorriso sulle labbra. È una critica, non è una critica. Però, Ferrara, le voglio presentare un commentatore che magari sulla questione di Balotelli e quello che ha detto ieri qualcosa ci potrà dire. Idrissa Sanné, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Io sono un po' assonnato, però ho seguito il discorso del direttore, non pensavo che fossi così bravo ad analizzare la situazione. Se ne intendo veramente di calcio, dovevo fare il commentatore di calcio. Ecco, Giuliano Ferrara, commentatore di calcio. Idris, è un grande. Idris, però, insomma, questa uscita di Balotelli di ieri, dice Giuliano Ferrara, insomma, nel momento un po' così della debolezza, della rabbia, ci possono scappare. Però questa storia degli africani non mi avrebbero scaricato. Voglio chiedere un parere, che ne pensa? È un vittimismo fuori luogo che non ha nessun senso, cioè, come ha detto il direttore, forse è un momento di debolezza, di delusione, poi lo mette sul piano del razzismo, della xenofobia. Io, conoscendo un ragazzo che ha delle volte, cioè, anche questo piccolo velo di timidezza, io l'ho conosciuto, lo conosco, è un bravo ragazzo, cioè, questa tracotanza, supponenza di cui parlava il direttore, cioè, è dovuto al fatto che questo è un ragazzo che ha bisogno di un supporto psicologico, di un accompagnamento psicologico, non ha mai vissuto, magari potrebbe essere una concausa della sua debolezza psicologica, caratteriale anche per il fatto che non ha mai vissuto con i suoi genitori biologici, un ragazzo che ha vissuto nella bambagia, ammirato, accoccolato dai genitori che l'hanno adottato, sbeffeggiato dai compagni perché aveva un talento naturale a giocare a calcio. Certo. E quindi bisogna analizzare tutti questi componenti che fanno sì che questo ragazzo qua non sia stabile caratterialmente, anche psicologicamente. Sì, però insomma, a parlare del mondiale riducendo tutto a Balotelli, ha sbagliato o no? Secondo lei non si fa proprio un errore, come dire? Cioè, lui dice, rifugge questa colpa, come dire, ma che ce l'avete tutti con me, no? Poi dice addirittura contro l'uomo nero, perché lo dice lui stesso. Beh, il fatto che abbia mancato quelle due occasioni da gol contro Costa Rica ha fatto di lui la bestia nera, capito? L'agnello sacrificale, come dicevi tu prima, cioè, sta di fatto che è tutta l'Italia che non ha girato bene. Io direi un annus horribilis per il calcio italiano, cioè, il nero viene visto perché, cioè, erano tutti neri, perché quelli di colore, cioè, erano proprio loro, cioè De Rossi, Buffon, faccio i nomi di quelli che hanno criticato direttamente il ragazzo, dandogli da fighetto personaggio, insomma, cioè in Brasile è naturale che tifino per Balotelli, l'uomo nero, cioè nel, con la sua gente, cioè a San Paolo, cioè nella foresta di Manaus, con chi volessi che tifassero. Cioè, È chiaro, il problema è questo, cioè vuoi che lui abbia dei comportamenti che possono essere discutibili per un giocatore della sua età, 23 anni, cioè, sì. Ma si può anche parlarne, cioè, io direi un accompagnamento psicologico, non su un letto da psicologo, cioè da psicanalisi, sì. Ma un accompagnamento come quello Giuliano Ferrara che ha Suarez, non pare che non abbia portato molto, no? Il cannibale recidivo, esatto, adesso lo so, lo cacceranno? Non lo so se lo cacceranno, sarebbe un peccato, sarebbe un peccato, si parla di possibile squalifica fino a 6 mesi, è già la terza volta che morde uno in campo, non è che... Lo so, è un giocatore incisivo. è abbastanza incisivo, insomma, l'elogio di Suarez, Ferrara si attirerà tutta l'Italia contro, dai, su. Ma no, dai. Ma figuriamoci, ma gli italiani sono più figli di puttana di Suarez, sanno benissimo che ci sta in una rissa in campo, insomma. Ci sta, voglio dire, non ci sta affatto, non ci sta nel regolamento, non ci sta nell'etica del gioco del calcio, però quella cosa, io poi trovo che la cosa più bella è quando ho detto c'ho mal di denti. Sì, quella devo dire anch'io, ero mi sbellicavo dalle risate, uno che morde e si tiene i denti, come dire, mi fanno male. Tiene i denti, quella fatto sì. Male, ha dato una spallata. Quella sì, effettivamente, avrà preso l'osso e quindi... Sì. Però, Ferrara, c'è una cosa effettivamente che da 2 giorni io ho pensato, lei ha capito perché Prandelli ha fatto quel riferimento invece ai soldi, i soldi che ho preso, le tasse che ho pagato? Perché l'Italia è completamente impazzita, è sempre colpa dei partiti, dei consiglieri regionali, sono tutti ladri, i soldi, le cose, i finanziamenti, mancano la cultura, la nazionale, ma tutte scemenze naturalmente, non è così, la nazionale vive nella bambagia, sta benone, guadagnano i loro soldi giusti, stanno in condizioni di mercato, sono come le altre nazionali, forse siamo anche un po' più ricchi. Abbiamo la sauna preventiva, i bagni turchi. Siamo credo la delegazione che spende di più, anche oggi Libero dice 5 milioni di euro. Delegazione più numerosa, siamo in 90. Magliette meravigliose, tutta un'area di glamour, eccetera, scarpette bicolori, non so, non mi lamenterei per questioni di migragna, ecco, perché il calcio tutto manca al calcio italiano, tranne che insomma la disponibilità della nazione intera a sostenerlo finanziariamente. È chiaro, solo che Prandelli dice uno dei motivi per cui mi dimetto è che mi hanno accusato di rubare i soldi. Io non ci sto a dire, dire che rubo i soldi ai contribuenti. Ma lui si dimette per motivi ovvi, perché è finito tutto un ciclo, tutto un modo di concepire. Bisogna rinnovare, mettere tutti dei giovani al posto dei vecchi, insomma. Le solite cose del calcio, dai. Solite cose, insomma, la sconfitta e cambiamo. La Francia, visto, la Francia ha fatto così e sono lì e zampettano come pazzi. Mi sono rimasti a pensare a Zidane, hanno fatto un'altra cosa, l'altro che ha dato la testata, cioè, è uguale a me piacciono questi che sono momenti che sono immortalati nella storia dei mondiali, non è poi che... c'è la telecamera in picciona che ci racconta tutto. Una volta mi ha detto il mio amico Piero Vietti, che di calcio se ne intende, una volta succedeva così e anche molto di più, solo che non c'era la telecamera che ti riprendeva, capito? Quindi era una, cosa di loro, adesso è tra di loro con 1 miliardo di persone. Vabbè, ma io nel ringraziarvi e salutarvi, Idris, vorrei capire, ma che fare con Balotelli, a parte il supporto psicologico? Questo sarà un problema suo, cioè se lo gestirà, se ne avrà bisogno lo chiederà, se non ne avrà bisogno saranno fatti suoi, diciamo. Che fare come talento del calcio italiano? Cioè, c'è chi dice basta, un po' di panchina gli fa bene, c'è chi dice no, bisogna supportarlo, bisogna farlo giocare perché bisogna dargli fiducia, che faresti tu? Smetterla con la gogna mediatica sulla quale lui campa, cioè, naturalmente, cioè, io direi di ignorarlo, cioè, perché non è possibile che qualsiasi cosa lui faccia venga rilevata o rimarcata dalla stampa. Poi uno va a pensare che sotto sotto c'è una piccola lena di xenofobia, cioè non dico razzismo pigmentale, ma cioè, che poi magari delle volte lui se li cerca anche, perché cerca di essere strafotente. Vabbè, cioè, sì, è il carattere, cioè, molto provocatore, molto sfrontato. Cioè, sì, ma poi cioè, non possiamo continuare a parlare di Balotelli sempre, ever and forever. Cioè bisogna smetterla, lasciamolo libero, lasciamolo tranquillo, ignoriamolo addirittura, forse gli farebbe anche bene caratterialmente quando non è sui fanali o sui, diciamo così, sui quarzi della televisione, capito? Ignoriamolo un po'. Ignoriamolo, può essere un metodo, un sistema, un viatico anche per farlo crescere, capito? No? E cioè, ma sì, perché non può passare qualsiasi momento, cioè sia per la strada, sia in discoteca, sia cioè, ovunque, a casa sua, non lo so, è sempre seguito dalla stampa, cioè capito, no? Mediatizzato eccessivamente, cioè manco Renzi è così, Dio buono. Neanche effettivamente, no, sì. Effettivamente un po' è così. Allora, io ringrazio Idris che ha questa grave malattia di essere juventino, ma nonostante ciò... Ah sì, quello dichiaratamente fazioso, ma ineluttabilmente. Ma si guarisce secondo te? Se ti No, è una patologia. Lo ammetti. Vabbè, se lo ammetti già è una prima fase di presa di coscienza. Va bene, ringrazio, grazie Idris, grazie a Giuliano Ferrara, direttore del Foglio. Dopo la pubblicità 800 24 00 24, questo è il numero di telefono. Poi parleremo di compiti per le vacanze per i ragazzi, ma prima, se volete dire la vostra su Balotelli, mi raccomando, state tranquilli, state sereni, hashtag state sereni, ma dite la vostra e siamo qui a rispondervi. 24 mattino. Allora, Mario Balotelli, l'uomo che divide l'Italia in questo momento, è inutile negarlo. Allora, cari ascoltatori, dite la vostra. Marina da Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, che ne pensa? Ha seguito la partita? Lei è appassionato sì, di calcio? Sì, ho seguito la partita, ma mi sono un po' stufata di tutta questa... Benissimo. Questo fatto che Balotelli, poverino e giovane, ha bisogno di un supporto. Cioè, questo è benedetto dal Signore tre volte. Prima è stato adottato da una famiglia che l'ha amato e l'ha fatto vivere decorosamente. In più ha avuto il dono di saper giocare a pallone e di essere scoperto, perché in Italia abbiamo tanti ragazzi che sanno giocare al pallone, ma non hanno la fortuna di essere scoperti. Guadagna milioni di euro a 23 anni, cosa deve dire un ragazzo che ha avuto i genitori che si sono ammazzati di botte, che a 23 anni lavora in un call center a 500 euro? Quello cosa fa? Ha bisogno di un supporto del ma euro. Quindi cosa dovrebbe fare? Perché... No, dovremmo smettere tutti di fare sempre quelli che devono metterci la psicologia dovunque. In Italia abbiamo ben più gravi problemi e io ero abituata e quando tornavo a casa avevo disturbi dell'attenzione come adesso hanno i ragazzi, che mio padre mi dava un calcio in culo e mi diceva: Lazzarona, disciulati e studia. La ricetta del calcio in culo, insomma, lei applicherebbe. Una volta i ragazzi avevano gli stessi problemi di adesso. Adesso dobbiamo usare la psicologia, poverini, sono inadeguati, la società. Una volta ti davano una bella remenata, ti mettevano in castigo e col cavolo che avevi disturbi di apprendimento. Beh, Marina, il castigo un po' c'è stato con la panchina, no? Sapete che durante il primo e il secondo tempo tra Italia e Uruguay, racconta oggi il Corriere con anche dei disegni, pare che Prandelli abbia detto: caro Mario, se continui così 10 minuti e ti sostituisco nel secondo tempo, e lui pare che abbia avuto una delle sue reazioni, sedie spostate, e allora la sostituzione è arrivata immediata. Da lì poi ne è seguito tutte le polemiche, anche le prese di distanza, senza mai nominarlo, di alcuni giocatori, Buffon, De Rossi, insomma gli anziani della squadra, quando hanno detto, Buffon soprattutto, gli anziani tirano la carretta, i giovani fanno le figurine. Vabbè, Giuseppe da Catania, buongiorno. Si sta anche parlando con leggerezza, nel senso, stiamo parlando del calcio e quindi di una cosa che appassiona molti, ma è anche certamente non il problema più grande degli italiani, lo sappiamo. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi altri tutti. E allora? Senti, io volevo rimarcare il discorso che ha fatto la signora di un momento fa. Dico, da Balotelli ci si aspettava le imprese di Giasone e ci si aspettava i discorsi di Emanuele Kant. Già, il signor Balotelli, fortunatamente per lui, ha trovato una strada di successo. È un ragazzo perché è cresciuto male, no? Perché a 23 anni ci sono ragazzi che hanno la famiglia, che hanno i figli, che hanno le responsabilità. Lui da un momento all'altro dice che si sposa, da un momento all'altro lascia la è un ragazzo come tanti ragazzi, come tanti ragazzi, questo è un disadattato. Beh, adesso, l'Italia ha perduto la nostra squadra perché ha perduto la squadra, non Balotelli. Balotelli non l'ha fatto perdere. Certo. Però Giuseppe è un disadattato, ma lei non lo conosce, neanche io lo conosco, non possiamo dire se è un disadattato. Ma è disadattato dai discorsi che fa. Perché dice le reazioni. Il suo modo di parlare è un ragazzo di un disadattato. È il modo di parlare di un ragazzo disadattato. Va bene, caro Giuseppe. Io la legge così, va bene. La ringrazio per questo suo giudizio. Andrea Carbogna da Enzo, buongiorno. Buongiorno, la mia considerazione è questa, che noi italiani in particolare, vi ricordate La Rocca, quel famoso pugile? Sì, come no. Sì, mulatto. Certo. Noi ingaggiamo sempre, non ci interessa il colore Nino della pelle. Nino La Rocca, tra l'altro il Presidente della Repubblica Pertini, se non sbaglio, lo onorificò, non lo so, in tutti i modi. Siamo abituati a voler vincere comunque. E quindi quando ci conviene, come in pratica gli argentini, italo-argentini che facevamo giocare in nazionale, il nostro intento, oppure Owen, il famoso saltatore in lungo, ci interessa utilizzare le persone in questo senso, e chiaramente anche i giornalisti e la mentalità complessiva ci marcia. Sì. Poi tornando direttamente a Balotelli, secondo me una settimana prima ha fatto questo gol, ha fatto solo quel gol ed è diventato un eroe. È chiaro, questa ma noi siamo così, cioè, siamo fatti così, santifichiamo e buttiamo in basso l'ultima partita. Lì la responsabilità, secondo me, non è tanto di Balotelli, ma secondo me è stato di chi l'ha portato lì, il signor Prandelli, sì. Che invece di dirle fra 10 minuti ti sostituisco, gli avrebbe dovuto dire tu vai in campo, dai quello che devi dare, gli avrebbero dovuto dire anche gli altri questa responsabilità. Chiaramente un ragazzo come lui, 23 anni, che tra l'altro non è perché ha la pelle nera, ma tutti i 23enni che vivono in quel mondo lì restano bambini. Io ma sì, ma dovunque, ma non so, ma il problema capisce che tutti, sì, ma tutti, e invece Balotelli dice ce l'avete solo con me, questo è il concetto di base, cioè tutti, non è che solo Balotelli è un viziato, è uno che sa giocare a calcio, ha 23 anni, guadagna milioni e quindi magari ha dei punti di riferimento diversi dal 23enne che sta studiando, dal 23enne che fa l'operaio, dal 23enne disoccupato. Però Balotelli dice se sono tutti così, questo immagino il suo risentimento, perché ce l'avete sempre e solo con me, qualunque cosa faccia? Questo è il significato. Comunque Enzo, la ringrazio, il dibattito è aperto come vedete. Non so se il successivo ospite che voglio salutare, che è un dirigente scolastico tra l'altro, è un professore ed è anche uno scrittore, si chiama Maurizio Parodi, che saluto, buongiorno e benvenuto. Non so se lei ha una ipotesi sulla vicenda da Balotelli di cui abbiamo discusso finora, prima di parlare del tema che la riguarda. Purtroppo non ho seguito la discussione. Un'idea su Balotelli sì, Balotelli no. Non ho seguito neanche i mondiali di calcio. Quindi sono totalmente inabile. Incompetente. Avulso dalla questione. Allora, Maurizio Parodi è un dirigente scolastico, si dice il più amato da tutti i bambini e le bambine e gli allievi e coloro che vanno a scuola, perché porta avanti la teoria in maniera molto chiara che durante le vacanze non bisogna fare compiti. Non bisogna fare compiti. Dopo il traffico, tra un minuto, Maurizio Parodi ci spiegherà perché. Allora Maurizio Parodi, eccoci qua, lei ha scritto qualche tempo fa, ma è sempre di attualità, il titolo Basta compiti. Con questo saggio lei vuole dimostrare che fare i compiti durante l'estate che cos'è per gli studenti? Ma è un sacrificio del tutto inutile, ma la mia posizione è molto più radicale, basta compiti, non è così che si impara il sottotitolo, significa, in modo credo abbastanza eloquente, come dire, la convinzione che i compiti a casa siano comunque inutili o dannosi, e non solo i compiti per le vacanze. Quindi non essendo mai stato dimostrato che i compiti a casa consentano degli apprendimenti significativi o il consolidamento di pregressi apprendimenti, io ho provato a domandarmi quale ne sia il senso e ho scoperto che i compiti a casa appunto possono risultare molto dannosi soprattutto per chi sia svantaggiato, per chi non abbia, che so, un sostegno familiare adeguato, per chi abbia genitori latitanti o non presenti come dovrebbero. Con il rischio quindi che i compiti a casa risultino discriminanti proprio per i discriminati e quindi aggravino la condizione di chi sia già più svantaggiato rispetto ai compagni. Vabbè, lei al di là dell'ironia, dire è l'idolo di molti studenti che ovviamente dicono è il prof che non ci dà i compiti, in realtà la sua teoria è una teoria molto elaborata, molto articolata, cioè cosa dovrebbero fare d'estate tutti i nostri figli? Dovrebbero dedicarsi ad un ozio il più possibile fecondo e dilettevole, che può essere attività estremamente significativa anche dal punto di vista più squisitamente cognitivo. Il fatto di una passeggiata in un bosco, una lettura fatta per il piacere anche sensuale, suggerisce Daniel Pennac, dell'incontro con l'autore e non per dovere, quindi che non sia obbligata e formativa. Il condividere con i compagni l'ultimo videogioco che è uscito sul mercato. Come suggerisce qualche maestra più illuminata, fare una capriola al giorno, oppure costruire un contenitore più o meno virtuale o materiale nel quale riporre oggetti che rappresentino, che so, le esperienze più interessanti, quelle più emozionalmente coinvolgenti. Ci sono infinite cose che possono fare i ragazzi, anche attrezzandosi senza bisogno dell'ingiunzione magistrale, insomma, e che possono risultare non meno pregevoli, spregiati dei compiti così spesso così pedanti, certo, oltre che estenuanti. Questo è vero, sa che però, professor Parodi, la critica che le viene fatta è questa: durante tre mesi, queste più o meno sono le vacanze, si rischia di dimenticare gran parte dell'apprendimento che gli studenti hanno accumulato durante l'anno precedente. E a questa critica lei come risponde? Intanto va detto che se questo rischio si corre è perché evidentemente si è insegnato poco e male. Insegnare dovrebbe avere proprio questo significato, lasciare il segno. Se un apprendimento è così precario, volatile, significa che non è stato. Ma non crede che sia anche una questione proprio di tempo? Cioè io non mi ricordo tantissime cose come tutti che anni fa ricordavo alla perfezione quando si studiava. Una parte dell'apprendimento è anche mnemonico, no? E quindi No, purtroppo è quasi tutto l'apprendimento mnemonico. Ed in effetti il timore è legittimo. Il problema è che quando si impari ingurgitando forzatamente nozioni che poi devono essere rigettate a comando nel corso delle interrogazioni e delle verifiche, la longevità di questi apprendimenti è minima, nel senso che dopo un mese o due quel che si è imparato in questo modo, con l'unico scopo di, ottemperare ad un obbligo, si dimentica, non rimane traccia. Quindi è vero che le cose si dimenticano, ma si dimenticano perché sono del tutto insignificanti, perché non c'è riverbero emozionale, risonanza interiore. E dire che c'è una teoria che secondo la quale invece i giovani bambini di oggi non studiano abbastanza, nel senso, o forse lei dice studiano male rispetto ai nostri nonni, ai nostri genitori che invece passavano magari ore a dire le tabelline perché si dovevano imparare a memoria, le poesie perché si imparavano a memoria, adesso non sanno mezza poesia. Sì. Il problema credo che sia proprio quello della significatività. I bambini e i ragazzi di oggi sono capaci anche di una concentrazione, commovente, laddove si diano delle attività che siano funzionali alla, che so, alla soluzione di problemi riconosciuti come, come tali da loro stessi, che corrispondano a bisogni, a desideri, a sogni. Il problema è quando ci si debba applicare ad un'attività sterilizzata dal punto di vista emozionale, del tutto astratta, asettica, come capita spesso nella scuola. È sufficiente chiedere agli studenti perché stanno facendo quello che stanno facendo, è sufficiente rivolgere questa domanda per capire quanto sia del tutto insignificante l'attività che svolgono. Non sanno perché fanno quello che stanno facendo. Sì, lo fanno perché gli viene imposto. È un obbligo, purtroppo a questo sono esposti e a null'altro. E questo risponde a una logica, ahimè, di insegnamento cattedratico, verbale, verboso, che è il contrario di quello, tra l'altro, della didattica che viene indicata dai programmi, chiamiamolo così, ministeriali, il tutto disatteso. No, è chiaro. Ma lei è più idolo di alcuni studenti o di alcuni genitori? Perché sa che fare i compiti diventa... è un sacrificio, anche questa è una battuta, non è che voglio invogliare... No, non è una battuta, è una questione complessa, perché se è vero che imparare è importante, è vero che è ancora più importante imparare a imparare, e questa, che in gergo tecnico significa competenza metacognitiva, che dovrebbe essere il primo impegno del docente, viene di fatto delegato alla famiglia attraverso l'assegnazione dei compiti extrascolastici, domestici. Quindi praticamente gli insegnanti vengono promossi, i genitori vengono promossi al ruolo improprio di insegnanti di complemento per fare la cosa più importante, per mettere i figli in condizione di imparare. Ci sono alcuni genitori che molto apprezzano questo ruolo, anzi ritengono che le scuole che danno più compiti siano le più serie, le più severe. E sono quelli che li vivono. E ci sono quelli che invece non ne possono più di doversi sostituire, non solo gli insegnanti, anche i figli, perché il carico di lavoro spesso è tale che costringe i genitori a fare i compiti al posto dei figli. No, ma è chiaro. Io, professor Parodi, il tema è lanciato, se vuole il dibattito è aperto. La ringrazio per essere stato con noi. Sono tantissimi messaggi, c'è chi ci dice, come Elisabetta, professoressa di fisica, ha ragione il professore, ma ci sono anche tante critiche. C'è chi mette insieme i due temi che abbiamo affrontato e dire, sì, così senza compiti vengono fuori i Balotelli. Vabbè, e quindi abbiamo fatto anche, chiudendo il cerchio, la somma dei due temi. Si fa anche per celiare, cari ascoltatori. Intanto ringrazio il professor Maurizio Parodi e ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi in redazione, e vi diamo appuntamento a domattina con l'alpino Peter Bescapè in regia alle 6:30. Siamo qui. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.